Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. È domenica 12 gennaio 2014, 143esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo la collaborazione preziosa di Francesco Azzurri e per la selezione musicale Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up. Il GACI è un'associazione con sede a Modena che si occupa del recupero di levrieri, particolari cani snelli e velocissimi che vengono allevati, sfruttati e poi uccisi senza pietà in altri paesi europei. In particolare in Spagna, dove vengono allevati per la caccia, e nei paesi anglosassoni, Inghilterra e Irlanda, dove vengono sfruttati per la corsa e le scommesse. Abbiamo incontrato Chiara Ottolini, vicepresidente dell'associazione, e le abbiamo chiesto il significato dell'acronimo GACI. GACI è l'acronimo di Greyhound Adopt Center Italy, ed è un'associazione che si occupa di trovare casa ai levrieri a fine carriera in Irlanda e in Inghilterra e dismessi dalla caccia in Spagna. Sono cani molto particolari perché in Spagna vengono utilizzati proprio per la caccia, mentre nei paesi anglosassoni, tendenzialmente anche Australia e anche in America, sono utilizzati e sfruttati per le corse, quindi per il gioco d'azzardo fondamentalmente che c'è dietro, per le scommesse che ci sono dietro le corse. Perché proprio i levrieri? Cosa c'hanno di speciale questi cani? Il loro essere speciale è una fortuna e anche una sfortuna, perché comunque sia la loro struttura fisica, l'impostazione proprio muscolare che hanno, le loro caratteristiche li portano ad essere cani molto veloci, sia per correre che per cacciare. Quindi fin dall'antichità, tantissimo tempo fa, venivano utilizzati proprio dai nobili in Spagna per la caccia, e in Irlanda venivano allevati proprio in apposite farm, che sono degli allevamenti, un quantitativo enorme di cani. Tra questi i più veloci facevano le gare, portavano guadagni al padrone, utilizzati esclusivamente come mezzi per guadagnare, quindi non considerati animali in quanto animali proprio, da affezione anche, da compagnia. Solitamente i levrieri sono visti molto come i nostri polli, le nostre galline, cioè allevati in batteria servono a quello, e non sono considerati cani come noi intendiamo i cani, viverli, dargli da mangiare, farli dormire sui divani o il loro giardino. Sono proprio sfruttati e maltrattati, ed è l'industria delle corse che per il guadagno fa questo a questi poveri animali. Spagna, spesso allenati, legati, attaccati a dei carretti, trainati per allenarli nella corsa, quindi alla resistenza, quindi a seguire le prede, a cacciare. Vivono come nomadi, vengono abbandonati quando non sono bravi nell'arte venatoria, buttati nei pozzi, abbandonati per la strada. c'è una bruttissima tradizione in Spagna che se i galgo sono stati dei bravi cacciatori, nel momento in cui non ne hanno più bisogno vengono impiccati a un ramo alto, quindi il cane in pochissimo tempo perde la vita. Se il cane non ha dato profitto, comunque sia non ha cacciato come doveva, non è stato un bravo cane, vengono impiccati al ramo dei rami più bassi, in modo che riuscendo a toccare con le zampe l'agonia si protrae. Questo è il galgo in Spagna e comunque non gli va proprio benissimo. In Irlanda esistono allevamenti, esiste proprio un circuito, un'industria nel quale vengono registrati i cani che nascono con il tatuaggio, con il chip, fanno parte proprio di allevamenti riconosciuti. 50.000 cuccioli all'anno a dire poco, dai 6 mesi iniziano ad allenarli alla corsa, poco dopo entrano nel circuito delle corse, poi se sono bravi vanno avanti, se non sono bravi ma hanno certe caratteristiche fisiche diventano fattrici alcune femmine, altre femmine tengono dietro le cucciolate, insomma utilizzano il cane in tutti i loro modi. La differenza, che è paradossale, ma in Irlanda la loro fortuna è che essendoci la soppressione legalizzata, se un cane è pessimo nella corsa o non porta guadagno al proprio padrone, puoi sopprimerlo legalmente, nel senso gli fai la puntura e lo sopprimi. Invece in Spagna lo buttano nei pozzi, comunque muoiono. Se non sono bravi, a 2 anni hanno finito la carriera, anche prima. Se sono bravi arrivano a 3-4, alcuni casi arrivano a 6-7, a volte li costringono anche a correre con vecchie fratture rimesse a posto, non hanno possibilità, non hanno futuro. Se nessuna associazione che li recupera li riscatta, nel senso che decide che li prende, sterilizza, fa il viaggio, li porta in Italia, Svezia, Francia, Svizzera, in tutti i paesi, finiscono nei pound, si chiamano, che sono dei grossissimi sorti di macelli dove hanno 7 giorni di tempo e se non vengono riscattati si fa la puntura e li mettono a dormire. Conosco i numeri dei recuperi delle associazioni, che sono una goccia nel mare, perché quando si parla di 50-60 mila cuccioli soltanto in Irlanda, insomma nel circuito delle corse irlandesi e inglesi in un anno, e quando pensiamo che se siamo proprio bravi riusciamo a portare 200-250 in un anno solo grey dall'Irlanda e un 150 galgo dalla Spagna, sono veramente pochissimi purtroppo. Passiamo al lato positivo, vediamo qualche storia. Qui abbiamo Erika ed Erika sta accarezzando Elliot, io ne ho 2, Elliot ed Alfi, che sono 2 incroci, podenco, uno podenco ibisenco e l'altro è un podenco portoghese. Come mai hai scelto di adottare un levriero e non un altro cane, visto che comunque l'offerta c'è anche di ogni genere, direi? Allora, io ho sempre avuto cani, ho sempre amato i levrieri, però sono contraria all'acquisto di animali di qualsiasi genere. E venendo a conoscenza della situazione dei levrieri in Spagna e in Irlanda, ho conosciuto il GACI. Ho conosciuto loro come associazione e la loro serietà, che si vede veramente di rado, e di conseguenza mi sono affidata a loro per trovare un cane che fosse adatto a me e alla mia famiglia, indipendentemente da quello che fosse il colore, di quello che fosse la razza, nel senso che io ho gatti, quindi loro mi hanno consigliato un galgo rispetto a un greyhound, e poi loro mi hanno chiesto se mi poteva andare bene Elliot, che in realtà si chiamava Holder quando è arrivato. E com'è andato l'inserimento in famiglia? È andato benissimo, meglio di quello che si pensava in realtà, perché quando aggiungi un membro della famiglia devi tener conto non solo di lui stesso ma anche di quelli che già ci sono. E io avevo già una cagnolina anziana e in realtà lui, grande e grosso, si è completamente affiancato alla cagnolina, l'ha seguita in tutto, ha imparato quello che erano le regole della casa, quello che doveva fare, quello che non doveva fare, perché lo sa benissimo. Incredibile l'adattabilità di questi animali, di tutti i cani in generale, però i levrieri sono molto, molto sottili nell'inserirsi nella famiglia. Entrano in punta di piedi, dall'oggi al domani ti chiedi come hai fatto a non averlo mai avuto prima. È arrivato che aveva 1 anno e mezzo, adesso ha circa 4 anni e mezzo. È molto elegante, è molto tranquillo, però sotto la faccia da tranquillo è comunque un monello, si diverte, corre, ride. Come sanno ridere i levrieri? perché chi non li conosce li guarda negli occhi e pensa che siano cani tristi. Sì, è vero, hanno un tratto malinconico, esteticamente parlando. Invece chi li conosce, chi li ha a casa, sa che sono tutt'altro che tristi, anzi, riescono a fare delle cose inimmaginabili, dei movimenti, dei salti, dei giochi che li rendono buffissimi e tutt'altro che tristi, insomma. Che cosa diresti ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che si incuriosissero per la storia di questi tipi di cani? Io dico sì, adottare un levriero, perché sono cani spettacolari, sono cani con un carattere fantastico, però farlo con intelligenza e scegliere le persone giuste, non avere fretta, non dare importanza all'estetica, perché non è questo che conta. E non è quello che fa funzionare poi bene i rapporti in casa. Per informazioni www.adozionilevrieri.it o cercate sul motore di ricerca l'acronimo GACI, gatto, anatra, cane, ibis. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Affrontiamo il tema della mattanza dei lupi in Maremma. In rete sta girando una petizione da firmare, molti di voi l'avranno già vista e firmata. Ne parliamo con Giacomo Bottinelli, responsabile LAV di Grosseto e consigliere nazionale sempre della LAV, Lega Antivivisezione Italiana. La strage di lupi sta continuando ed è chiaramente una situazione che vede come principali sospettati gli allevatori che, lamentando la loro esasperazione, giustificano in qualche modo questa strage. Anche se qualche voce si è levata nel dire, anche da parte degli allevatori, non bisogna uccidere i lupi, però per la LAV i concetti sono due. Uno, chiaramente questo è un reato in assoluto e tantomeno si possono proporre, come ha fatto l'onorevole Sani, dei piani di abbattimento dei lupi, ma c'è un concetto ancora più, diciamo, importante, ovvero la LAV chiaramente per statuto ha un'impostazione vegana e contraria all'uccisione e allo sfruttamento di animali. Quindi queste persone, considera che solo in provincia di Grosseto ci sono 215.000 pecore in base ai dati delle stesse associazioni degli allevatori, questo significa che sono 215.000 animali che comunque producono agnelli che poi vanno al mattatoio. Quindi la LAV chiaramente non può giustificare una prosecuzione o avallare una prosecuzione di queste attività, perché andrebbe contro i suoi stessi principi. Non esiste tanto il problema dei lupi, esiste cioè il problema dell'allevamento, che è un tipo di produzione che crea la morte di animali a fini alimentari, e a questo la LAV si oppone assolutamente. In più, nel momento in cui questo tipo di animali vengono danneggiati, allora ce la prendiamo anche con i lupi, che poi spesso lupi non sono, ma sono i cani degli stessi allevatori lasciati liberi di vagare. Questi sono i concetti cardine di tutto questo. Cercare di avallarlo anche a livello politico, come ha fatto l'onorevole Luca Sani, tentando di far passare una deroga per cui i lupi possono essere resi abbattibili in base ai danni che fanno, non va incontro a nulla, e la stessa Lega Ambiente si è opposta. Dacci un po' di numeri, se li hai. Quanti lupi sono stati uccisi? Sono 8, tra lupi e ibridi uccisi o a fucilate o addirittura strangolati, probabilmente per mezzo di lacci, però solo 5 di questi sono arrivati all'istituto zooprofilattico per le analisi necroscopiche, quasi alle quali poi si potrà cercare di capire se si può risalire anche ai colpevoli di questi delitti. Dopodiché c'è il fenomeno, tra tra l'altro correlato, che è capitato anche l'altro giorno, di avvelenamenti, altro reato punibile per legge per uccidere lupi o cani che si avvicinano alle greggi. E tra l'altro un dato importante è che oggi c'è a processo un allevatore di Roccalvegna che nel 2012, senza necessità, come scrive il giudice, sparò a due cani meticci che si erano avvicinati al suo gregge, uccidendone uno e ferendone un altro, il che conferma, appunto, come ovviamente si sa, che questo è un reato. E quante pecore? Ma le pecore uccise non c'è un numero preciso, anche perché non tutti quanti gli attacchi vengono denunciati. Sicuramente il numero è molto elevato. Le pecore attuali, sempre in calo in provincia di Grosseto, sono 215.000. È un settore in crisi, un calo di pecore che va nel numero di diverse migliaia di capi che calano ogni anno, agnelli che nascono soltanto per andare poi a pochi mesi a essere macellati. Per te, Giacomo, quindi qual è la soluzione sul piatto? Ricordiamoci che sono spesso loro, appunto, che generano il problema con uno scarso controllo dei propri cani, cioè quei cani stessi che dovrebbero controllare le greggi, poi dopo vanno a imbrancarsi e a colpire altre greggi. Tra l'altro il piano provinciale randagismo ha identificato due fonti del randagismo che sono la caccia e l'allevamento, sono le due principali fonti del randagismo nelle zone rurali della Maremma toscana. C'è un piano randagismo che è stato appena varato dalla provincia insieme a tutte le categorie interessate, piano provinciale randagismo, che siamo in attesa che i comuni adottino e che quindi ritorna sul discorso di prevenire soprattutto quelli che sono cani vaganti. In questo modo facciamo qualcosa di buono, fermo restando che la LAV non potrà mai sostenere gli allevatori, perché sostenere gli allevatori significa sostenere morte di migliaia di agnelli ogni anno soltanto nella provincia di Grosseto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta che andiamo a dare oggi è una ricetta molto veloce, semplice, che ha un sapore orientale, una cucina simile alla thailandese. Si tratta di seitan con porri e mandorle. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 grammi circa di seitan, un porro, un po' di peperoncino, del prezzemolo, un cucchiaio di salsa di soia, 100 g di mandorle pelate, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Iniziamo tagliando i porri a fette piuttosto spesse, circa alte un centimetro, e mettiamole in ammollo in acqua in modo che si possa lavare anche l'eventuale terra rimasta all'interno dei porri. Scoliamoli bene e mettiamoli in una padella con un bicchiere di acqua. Lasciamo evaporare l'acqua e aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva e un peperoncino spezzettato a mano. Facciamo rosolare per una decina di minuti e aggiungiamo il seitan tagliato a quadretti. Continuiamo a rosolare bagnando con la salsa di soia. A parte, in un'altra padella, saltiamo le mandorle per pochi minuti, pochissimi minuti, sempre con dell'olio di oliva, in modo da renderle tostate e un po' marroncine. Uniamo le mandorle al seitan, facciamolo andare ancora a fuoco vivo per un paio di minuti, aggiustiamo di sale e serviamo con un ciuffetto di prezzemolo tritato e, volendo, accompagniamo con del riso thai o del riso basmati al vapore. Come dicevo, è una ricetta molto semplice e veloce, anche per una cena rapida o quando torniamo tardi dal lavoro, ma molto molto buona. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà, e aspetto i vostri feedback. Se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Sostiene Vallauri. In Francia ha fatto notizia il manifesto sottoscritto da 24 importanti intellettuali, fra i quali ricordiamo fra i più conosciuti in Italia Michel Onfray, Edgar Morin, Alain Finkielkraut, i quali hanno chiesto al governo, alle istituzioni statali, di intervenire sui codici in modo da riconoscere la particolare natura degli animali, la necessità di una diversa considerazione da parte del diritto. Finora in Francia gli animali sono equiparati, dicono questi intellettuali, alle cose. In Francia è partita una discussione generale su questo tema. Professor Luigi Lombardi Vallauri, che impressione le ha fatto questo manifesto? Beh, intanto mi ha colpito che i 24 firmatari sono personaggi molto importanti, tre sono dell'Académie Française, poi gli altri sono tutti noti, non sono dei militanti animalisti di professione, ecco, sono dei personaggi di tutto rispetto, per così dire. Certamente nel Code Napoléon gli animali sono cose o beni mobili, esattamente come nel nostro codice civile del 42. Però è anche vero che sono esseri senzienti per il Trattato di Lisbona e per tutte le leggi di protezione sugli animali. Quindi come fanno delle cose al tempo stesso a sentire, avere psicologia, eccetera? C'è un'evidente contraddizione, ci sono delle tensioni e proprio queste tensioni o contraddizioni io le ho messe in luce nel mio contributo al volume La questione animale del Trattato di Biodiritto che ho curato con Silvana Castiglione. Certamente abbiamo un diritto scisso, quasi schizofrenico, non c'è dubbio. Quindi io sono contento che i 24 abbiano firmato questo appello e abbiano aperto la discussione. È interessante ma problematica la richiesta di una categoria propria tra le persone e i beni. Per un giurista civilista questa è veramente una sfida concettuale. Ora, è vero che ci sono esempi storici, perché gli schiavi romani erano res mancipi, cioè cose di un certo tipo, ma al momento io non so se una categoria intermedia, come chiedono loro, è disponibile. Naturalmente potrebbero essere, se non dei soggetti di diritto o di diritti, almeno dei portatori di diritti. Qui infieriscono le cosiddette controversie dogmatiche tra i giuristi, che io guardo con un certo distacco. Io da 25 anni sono favorevole all'uso della terminologia diritti, però vanno anche bene i doveri dell'uomo a proposito degli animali, se non verso gli animali. Quello che secondo me conta veramente è la efficacia e il rigore della tutela. Nessuno pensa che la Gioconda sia un essere senziente, però la Gioconda è tutelata meglio di te e di me, capisci? Quindi la cosa veramente importante è che gli animali siano trattati meglio. Certo, parlare di diritti ha una certa efficacia retorica e io credo anche un certo fondamento teorico. E c'è poi il problema, ma quali animali? Che viene un po' accantonato da noi animalisti. È chiaro che la tutela del cane di casa è completamente diversa da quella della zanzara di casa. Io stesso ultimamente devo dire che in un raptus notturno ho ucciso 5 zanzare, però ne soffro ancora. Anche perché ho letto quei passi bellissimi di un prigioniero, non mi ricordo se Silvio Pellico, no, un medico greco, che aveva come amici in carcere soltanto 5 zanzare ed era felice di nutrirle col suo sangue. Quindi sono pieno di rimorsi, però a un certo punto non ci ho visto più. Ora, voi capite che il problema quale animali va affrontato. Se no siamo alle solite, cioè ci sono i pierini, i figli di famiglia, cani, gatti, animali d'affezione, poi ci sono i 58 milioni di maiali massacrati dai tedeschi, che poi sono con Schopenhauer sensibilissimi al loro amichetto. E poi anche quali diritti? Per esempio, è evidente che gli animali non possono avere dei veri e propri diritti patrimoniali, quindi tutta una fetta del codice civile salta. Io credo che siano i diritti che noi chiamiamo i diritti della persona, della prima parte della Costituzione, cioè soprattutto il diritto alla vita, all'integrità fisica, al non dolore atroce e a uno sviluppo armonizzato con le loro caratteristiche etologiche. Ecco. C'è poi il problema dell'effettività del diritto, ci sono norme ugualmente legali, effettive e norme non. Il divieto di fumare in ambiente chiuso è praticamente effettivo, il divieto di parlare al telefonino guidando, che è parimenti legale, del tutto in effettivo. La Costituzione tedesca tratta e il Tierschutzgesetz tedesco trattano come creature, come noi, gli animali, dicendo hanno diritto alla vita, al benessere, eccetera, e poi i tedeschi macellano 58 milioni di animali all'anno. Quindi ci vuole diritto e cultura. E l'ho già detto in un'altra trasmissione, arrivarci con la cultura è superiore all'arrivarci col diritto, è più morale, perché ci si arriva con la convinzione e non con la deterrenza. Ed è sempre un po' umiliante vedere qualcuno che ci arriva solo per paura della sanzione, che sia amministrativa o penale, e non per un convincimento personale. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Cominciamo con due notizie, diciamo così, naturalistiche, entrambe riprese dal quotidiano Il Piccolo di Trieste. La prima è del 4 gennaio scorso, il titolo «Incontro ravvicinato con l'orso a Postumia». L'ha scorto un gruppo di triestini nei boschi della Slovenia mentre stava percorrendo un sentiero. L'animale è poi scappato. Il Piccolo ha pubblicato alcune foto scattate da Lorenzo Slama e Antonella Curci durante una passeggiata nel bosco sul Carso, oltre confine. Si vede questo meraviglioso animale che fissa il fotografo, lo guarda con curiosità e poi si allontana. In questo mite inverno evidentemente l'orso è sveglio e vaga per i boschi, una bellissima immagine della natura a ridosso della città. L'altra notizia, sempre dal Piccolo, ci porta invece sul mare. Il 6 gennaio, sulla spiaggia di Saccorgiana, riappare la diva Adriana. L'esemplare di foca monaca approda vicino a Pola e si fa fotografare dai passanti, poi una ragazzina si avvicina troppo e scappa. Nel 2012 la fuga dai turisti molesti. Secondo Il Piccolo, questa bellissima foca monaca, anche qui ritratta in immagini, fotografie, filmati, che potrete vedere attraverso un link dal nostro sito, è la stessa che periodicamente compare, diciamo così, in pubblico, e il giornale si diverte ad attribuirle una sorta di vanità nell'esibirsi. Ecco come comincia l'articolo. Si è lasciata ammirare per ore, spaparanzata sulla spiaggia di Saccorgiana a Pola. L'esemplare adulto di foca monaca è stato fotografato e filmato a lungo, manco fosse una celebrità di Hollywood. E soltanto quando una ragazzina si è avvicinata troppo con un cellulare in mano, Adriana, è così che la chiamano in Croazia, ha pensato che fosse il caso di tornare nell'azzurro mare istriano, guadagnando il largo. Avvistamenti che ci portano quindi a contatto con animali selvatici, come selvatici sono quei lupi o quei cani inselvatichiti, appunto, dei quali abbiamo parlato in altra parte della nostra trasmissione. La Repubblica del 5 gennaio, ecco appunto un articolo sul lupo in Maremma e le uccisioni che sono avvenute in quella parte della Toscana. L'articolo di Enner Meletti, titolato così: «Chi ha paura del lupo cattivo? Il Far West in Maremma contro gli ultimi predatori». 8 esemplari uccisi nelle ultime settimane. Principali indiziati delle esecuzioni, gli allevatori. Perché recinti e dissuasori non bastano più a fermare gli assalti agli ovili. E ora è scontro con gli animalisti. In realtà l'articolo si basa esclusivamente sulle parole di allevatori e delle loro organizzazioni. C'è un unico passaggio nel quale si citano per l'appunto gli animalisti per dire che, citiamo, la Maremma si divide sui predatori. Da una parte le associazioni animaliste come la LAV, che vuole le dimissioni di un direttore della ASL che ha chiesto l'abbattimento dei randagi e non un loro costoso mantenimento in canile. Dall'altra tutti gli altri. E via poi nel esporre le posizioni degli allevatori che vogliono una tutela dei loro interessi, che come sappiamo riguardano lo sfruttamento di altri animali, pecore e capre. Chiudiamo con un allucinante articolo dal Corriere della Sera del sabato 4 gennaio, nelle pagine dei Tempi Liberi, varie amenità soprattutto gastronomiche e turistiche. Il titolo è «Spagna, l'esperimento del foie gras etico, il metodo di un agricoltore dell'Estremadura, le oche nascono e crescono in libertà». Nell'articolo di Elisabetta Rosa Spina si racconta di questo allevatore e che anziché ingozzare e obbligare alla sedentarietà oche e anatre, ha scoperto un metodo per ingannarle. Continua ad ingozzarle, a fare in modo che si nutrano oltre misura con cibi molto nutrienti, dopodiché sfruttando la loro vocazione migratoria con vari accorgimenti, cioè allestendo spazi e zone riparate dagli attacchi di volpe e faine e disponendo sulla rotta migratoria abbondanti nutrimenti in modo che le oche e le anitre si fermino prima del solito, oltre che esche della loro specie. Dice Rosa Spina che la trappola è rappresentata dalle loro consorelle con le ali spezzate. Sono loro, si legge, ottime madri e seduttrici professioniste a convincere il gruppo, i maschi in particolare, a non abbandonarle. Decisione fatale per tutti perché verso fine ottobre, in una notte senza luna, l'allevatore e i suoi assistenti catturano oche e anatre per l'inevitabile epilogo. Il risultato è una produzione di 400 kg di foie gras all'anno, in parte già prenotato da sceicchi di Dubai, dalla Casa Bianca e dalla Casa Reale Spagnola. Il foie gras etico non è alla portata di tutti, ogni confezione da 180 grammi costa 163 euro, il prezzo da pagare per alleggerirsi un po' la coscienza. E qui dovremmo domandarci che senso possa avere il termine etico di fronte a pratiche di questo tipo che semmai aggiungono perfidia alla perfidia attraverso un raggiro, direi, del consumatore, del cittadino di buon senso che voglia ancora esercitare la propria intelligenza nell'interpretare i comportamenti altrui. Ma evidentemente in questo caso il Corriere della Sera ha voluto dare spazio a una proposta commerciale giocando la carta della curiosità e barando un po' sul significato delle parole. Il prossimo appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è per giovedì 16 gennaio 2014 alle ore 9.55 del mattino. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.